Benvenuti a una nuova puntata di Coccoli a Sidicio in versione sostanzialmente domenicale, nel senso che l'ascolterete il lunedì, ma io registro questa volta la domenica perché per impegni vari non posso essere in diretta il lunedì sera, però non me la sentivo di abbandonarvi di nuovo a una lunga estate senza almeno qualche nuova puntata di Coccoli a Sidicio e quindi ho rubato un po' del tempo della domenica per fare una trasmissioncina doverosa, nel senso che abbiamo fatto una trasmissione pre-hack meeting, è giusto farne una anche post-hack meeting, in cui magari vi racconto un pochino che cosa ho fatto in quei giorni a Genova al Buridda, che sono ormai passati da una settimana. Per me è stato invero un hack meeting molto veloce, perché per vari motivi ho presenziato soltanto il sabato, che comunque è stato parecchio intenso. Sono saltato di qua e di là tra vari seminari, in particolare il lunedì mattina, sì, lunedì, buono. Il sabato mattina ho assistito a il seminario diciamo un diverso modo di pensare alla relatività ristretta, a cura di un informatico con interesse matematici e fisici, fisici nel senso che si interessa di fisica, non fisici fisicamente. Ecco. E se devo essere onesto, complice forse anche il fatto che io mi sono alzato molto presto per arrivare lì alle 11, non ho capito molto, nel senso che è stato più un'esperienza quasi onirica, nel senso che ho ascoltato con molto piacere tutto, guardato tutti i disegnetti. Se dovessi essere sincero su quanto ho capito, direi poco o nulla, ma non per colpa diciamo, di chi teneva il seminario, più per colpa probabilmente delle mie mancanze in termini specifici in quel campo, e poi anche il fatto che appunto c'avevo un sonno allucinante, quindi mi sono vissuto questa ora e mezza di flusso di coscienza fisico-matematico esattamente come un viaggio onirico nella fisica matematica più diciamo per me di alto livello, e di conseguenza non so che cosa raccontare, se no questa sensazione che mi è rimasta. E diciamo il relatore ha comunque lasciato dei link che poi magari cercherò di mettere sul sito, o comunque più semplicemente, siccome post-hack meeting viene raccolto il materiale, slide, video e relatori, cose relative sul sito di Hack Meeting, con calma, nel senso con molta calma, probabilmente potete trovare le cose lì. Non so se ci sono già, non ho verificato, magari verifico nella pausina musicale che farò tra un intervento mio e l'altro, e poi durante la puntata vi do maggiori informazioni. Per ora vi salto di qua e là a raccontarvi un pochino il mio hack meeting, e quindi niente, si apre poi con questo seminario. Presto giunge l'ora dell'assemblea plenaria di mezzogiorno e mezza, che vedeva una quantità enorme di gente a separsi in giardino del Buridda. Il problema è che nessuno voleva stare al sole, quindi era una specie di grossa arena con il sole nel mezzo. L'assemblea è stata molto più che logistica organizzativa, si è discusso di svariate questioni. Consumato poi il pranzo, diciamo, sono rientrato nel normale flusso dell'hack meeting, godendomi due seminari. Il primo in realtà era una presentazione che avevamo organizzato con Colonia di Ruggine, ed era la presentazione di un libro di Letizia Oddo, sostanzialmente una psicanalista che ha dato un po' il suo punto di vista su la sua esperienza dell'internet attuale, in particolare riferita ad alcuni dei propri pazienti. Pazienti non è il termine esatto. riferita a alcune di persone in analisi da lei, era molto, diciamo, è stato abbastanza interessante il racconto di questa esperienza, più che altro perché appunto aggiungeva alle varie forme di interpretazione che abbiamo dell'internet anche una più marcatamente psicanalitica. Già si era parlato diciamo di psicologia cognitiva negli anni scorsi, riferito a, che ne so, allo sviluppo delle interfacce di Facebook piuttosto che di qualche altro social network, cioè di come l'interfaccia appunto venga studiata utilizzando spesso questi metodi da psicologia cognitiva. E l'approccio psicanalitico è molto meno, diciamo, meccanico in qualche modo, e per questo, nella sua differenza, è risultato credo abbastanza interessante. Insomma, il seminario è stato seguito, e io poi sono saltato a cercare di seguire diciamo un seminario su la crittografia. Si chiamava Criptocose, doveva essere un po' l'esperienza di un ricercatore sui suoi, diciamo, sui suoi studi. Raccontava un po' alcuni sistemi di crittografia non troppo convenzionali, e quindi magari l'idea era quella: ce ne facciamo qualcosa di sta roba oppure no, visto che se sostanzialmente non viene sempre pensata per esigenze nostre, ma magari viene pensata più per esigenze, che ne so, del cloud computing, di esigenze di mettere in sicurezza transazioni o interazioni bancarie o cose simili. Quindi, boh, ce ne facciamo qualcosa di sta roba, sì o no? In realtà questo seminario è poi slittato la sera, quindi l'ho visto, ma in serata. E mi sono invece visto nel pomeriggio un seminario interessante su, diciamo, il prendere in giro le intelligenze artificiali. Cioè, le intelligenze artificiali sarebbero tutte quelle reti neurali che si utilizzano per, cioè gli algoritmi per le reti neurali che si utilizzano per, ad esempio, analizzare le immagini e cercare di insegnare al computer a riconoscere le cose che ci sono dentro. È stato portato un esempio lì abbastanza interessante, con un particolare tipo di algoritmo. Diciamo, la cosa era una specie di dimostrare come queste intelligenze che vengono educate possano in qualche modo anche essere poi prese in giro. L'esempio che veniva portato era una foto con presente un'arma da fuoco, un mitra, diciamo, un'arma da fuoco grossa, ecco, quindi molto, molto evidente. L'intelligenza artificiale in sperimentazione era stata istruita a riconoscere armi da fuoco, gattini, coniglietti e un po' di altre cose, e diciamo è stato mostrato come sia possibile sporcare in qualche modo quell'immagine introducendo all'interno del rumore che ne modifica in parte la visualizzazione. Cioè, un umano, se le vede entrambe, nota delle differenze, ma non così sostanziali in verità. L'intelligenza artificiale, invece, viene completamente in qualche modo ingannata. Cioè, per lei, quella roba lì, che una persona è perfettamente in grado di riconoscere come un'arma, si viene invece indotta a riconoscerla come un gattino o un coniglietto. E questo è stato abbastanza, ecco, interessante. Si è parlato appunto dell'analisi sia white box, cioè conoscendo tutto sostanzialmente, l'algoritmo, potendola aggeggiare, eccetera, ma anche di quelle cosiddette black box, cioè io non so quale tipo di intelligenza artificiale ci sia dietro, ma tento ugualmente di ingannarla. In questo senso è stato portato un esempio di, mi sembra, due grossi ventilatori di motori tipo usati per gli impianti di condizionamento, quindi due ventoloni sostanzialmente, che messi uno sull'altro potevano, ad esempio, sembrare, o per la forma, diciamo, parallelepipedo potevano sembrare un frigorifero, ma per chi ha esperienza di sound system potevano anche sembrare due subwoofer. E infatti, con dei metodi abbastanza semplici, cioè sostanzialmente rifotografando l'immagine dei condizionatori e riproponendola scannerizzata alla stessa intelligenza artificiale con diversi gradi di definizione, si vedeva come lei dopo, mentre all'inizio la riconosceva per quello che era, cioè due condizionatori, pian pianino si spostava nel dubbio e diceva o è un condizionatore o è un frigorifero, e infine si spostava in no, è un subwoofer. E, cioè sono due sub. E questo era un altro seminario abbastanza appunto interessante che ho seguito. Poi è arrivata l'ora della cena e poi l'ora del seminario che era saltato, quello Cripto Cose, e l'ho seguito con piacere, è stato molto, molto, molto interessante in verità. E subito dopo sono partiti i 10 minutes che sono stati quest'anno tantissimi, tanto che appunto in lista post-hack meeting c'è stato anche qualcuno che ha fatto ri rivelare come magari si potrebbe cercare di allungare magari qualche 10 minutes che in effetti magari con la discussione eccetera era più prendeva molto più di 10 minuti, però era un peccato interrompere e farlo diventare un seminarietto, perché boh, nel senso di 10 minuti dovrebbe essere probabilmente una cosa molto veloce e se però l'argomento è molto interessante. Comunque ce ne sono stati veramente tantissimi, si è spaziato non lo so, era veramente vario, si è spaziato un po' dall'analisi dei router e sostituzione di un router fast web in fibra, cioè vi volete eliminare il vostro router fast web in fibra e sostituirlo con una cosa vostra. C'è qualcuno che l'ha fatto, cioè analizzando come funziona il router fast web, hanno preso sostanzialmente una specie di equivalente hardware e hanno fatto in modo che quell'equivalente hardware gestisse la vostra linea in fibra. E poi c'è stato un seminario, cioè un velocissimo 10 minutes su un linguaggio di programmazione inventato completamente da zero da un giovanissimo sostanzialmente. È interessante perché è una persona che ha studiato tantissimo, penso, per fare questo linguaggio di programmazione. Si è studiato un sacco di grammatiche, sintassi e cose varie e poi ha messo assieme questo suo linguaggio sperimentale. Che vabbè, in 10 minuti non si poteva cogliere qualsiasi cosa, ma si è colto senz'altro un grandissimo impegno dietro questa cosa. E poi cos'altro ricordo? Ora io non ho che una grandissima memoria, poi erano anche le 2 del mattino, quindi ciondolavo dal sonno. C'è stata una nuova puntata dell'applicazione Pushergram, che sostanzialmente è un'applicazione che sfrutta la tecnologia push di Google per implementare, per realizzare una chat peer-to-peer, quindi quelle cose tipo, per rendervi la chat peer-to-peer, è tipo Telegram, ecco, una cosa del genere, o Signal, ecco, Signal forse più peer-to-peer, più nota come applicazione, o anche, boh, insomma, queste cose qua, pure anche WhatsApp, ecco, se volete. Quindi l'idea era un po' questa qui, quella che stava dietro a questo seminario, e ve ne sono state molte altre. Ce n'era una anche di una interessante applicazione spiegata in 10 minuti come si realizza un motore di ricerca con Elasticsearch, in questo caso mirato a indicizzare tutte le mail del leak che aveva coinvolto non mi ricordo più, tipo il sito, uno dei siti della Lega Nord in cui erano stati leakati diversi giga di mail. Ecco, come faccio a ramanare in queste mail se nessuno me le indicizza? Zacchete, Elasticsearch e qualche altra struttura e via così. E io mi ricordo più o meno questi. C'è stato anche un altro seminario su delle centraline di controllo per la qualità dell'aria. Questo l'ho seguito con interesse, visto che anche a Firenze c'è un progetto che si occupa di queste cose, il progetto Che Aria Tira, con cui in qualche modo un po' alcune persone della comunità anche acara fiorentina stanno cercando di collaborare, quindi era interessante scambiarci pareri e impressioni. Dopo questo seminario, sostanzialmente, cioè la fine dei 10 minutes per me ha segnato anche la fine del mio hack meeting, visto che per vari impedimenti miei non me la sentivo di dormire là e mi sono ripigliato un treno all'alba e sono così ripartito in questo hack meeting velocissimo per me, ma non meno interessante. Chiamerò magari nelle prossime settimane qualcuno che c'è stato invece tutti i 3 giorni per farmi un po' raccontare anche le sue impressioni. Quindi questa era solo la prima puntata post hack meeting, ce ne saranno almeno un'altra, credo, in cui cercheremo di spiegare più lungamente tutto quello che è accaduto e anche quello che accadrà, visto che da hack meeting anche sembra che su Firenze si siano mosse delle cose, si siano mossi degli entusiasmi e delle energie, e vedremo se settembre-ottobre saranno forieri di qualche novità cittadina in questo senso e su queste tematiche. Vi lascio ora un po' di musica, poi qualche notiziola che ho raccattato al volo dal mondo del web, sempre qualche notiziola acarosa, e poi chiudo questa mia registrazione domenicale, perché anch'io ho una vita da weekend prima che riprenda la settimana lavorativa nel gran caldo, e quindi magari ecco, al posto di stare qui chiuso nella bellissima ma caldissima regia di Radio Wombat, insomma vado a fare qualcos'altro, a frescheggiare, a bere una bibita colorata, ghiacciata, come state facendo senz'altro tutti quanti voi in questa domenica, anche se, ripeto, mi ascolterete il lunedì. Ora vi volevo raccontare un po' una storiella che forse avete seguito sui giornali nell'ultimo anno. Si è parlato appunto dell'influenza che alcuni governi, in particolare quello russo, hanno cercato di avere sulle elezioni statunitensi, americane. Ci sono stati vari leak in quel del 2016, in particolare ha fatto piuttosto scalpore quello legato alle mail del Partito Democratico, e queste venivano appunto rivendicate, questo leak, da tale Guccifer. Un sacco di analisti indicavano in realtà in questo Guccifer una, diciamo, in realtà un'identità finta creata sostanzialmente da un gruppo legato all'intelligence russa. In realtà il gruppo, la cosiddetta Unit 74455, che sembra un numero di telefono di quelli veloci, per chiamare tipo le forze dell'ordine in qualche luogo della Terra. In realtà è appunto un'unità di intelligence russa. Ecco, dopo tutti questi rumor, queste cose, chi la sua interpretazione e chi no, in realtà è arrivata questa indagine che coinvolge 12 militari dell'intelligence russa proprio. Potete trovare in giro, se vi ricercate, diciamo, anche, penso anche sui quotidiani siano apparsi i 12 nomi di questi indagati per il leak, e quindi, diciamo, si fa avanti da parte di chi sta indagando sulla questione, la la convinzione che veramente dietro Guccifer ci sia in realtà l'intelligence russa, ora con dei nomi e cognomi. Non so bene come funzionano questo tipo di indagini con giurisdizioni internazionali, non so in che modo la cosa possa procedere, però per ora vi riporto diciamo, la notizia. La cosa era già uscita in realtà precedentemente, cioè, questi sospetti erano dati dal fatto che in questo leak, oltre alle mail, c'era anche un sacco di materiale che pareva essere tratto da precedenti operazioni di intelligence che in qualche modo venivano riferite, scusate, all'intelligence russa. Quindi alla fine non giunge completamente nuova questa cosa, però ora si è molto concretizzata in una qualche forma di accusa diretta. Vedremo un po' che succede. Infatti casca proprio prima che cioè poco prima di un incontro paventato tra Trump e Putin. Boh, vedremo che diranno, se non diranno semplicemente niente, parleranno d'altro, come è probabile. Comunque, tant'è, ve lo riporto. Se vi volete cercare ma maggiori informazioni, cercate Guccifer 2.0. In realtà, se lo cercate sul sito anche solo di Wikipedia in inglese, trovate praticamente tutta la spiegazione di che era sta roba dell'operazione, eccetera. Quindi, diciamo, è facile ricostruire questo anno fino ad arrivare a questa indagine. Se vi interessa un po' di comprendere gli scenari internazionali, di come gli stati si sfidano nell'agone dell'internet, e no, non vi dico nient'altro, tanto era poco, diciamo, sono tutte cose che bene o male vengono fuori lentamente. E si perdono un po' nel tempo, no? Nel senso che ormai siamo nel 2018, questa è una roba del 2016, lentamente si riesce a capire come forse sono andate le cose, forse no, ma poi alla fine anche chi se ne frega, giustamente. L'altra invece notiziola che vi volevo dare, però è sempre legata a operazioni di intelligence, ve le do assieme perché appunto è interessante, sono, diciamo, riferite allo stesso tema. Questa riguarda alcuni target particolarmente interessanti, vengono definiti highly target, sono evidentemente le persone a cui è interessante controllare il telefono. È stato ritrovato sostanzialmente un malware per iPhone che sfrutta un'interfaccia che si chiama MDM, che sarebbe per Mobile Device Management, che è una specie di interfaccia da controllo da remoto che la Apple si tiene per poter agire sugli iPhone a distanza. L'attacco pare sia riferibile alle zone dell'India. Ecco, e cosa fa questa roba? Beh, prima non si capisce bene come, perché i passaggi per attivare questa cosa sono svariati su tutti i manuali, cioè l'utente deve aggeggiare per attivare questa cosa, però in qualche modo questi target sono stati trovati, hanno aggeggiato evidentemente, e si sono ritrovati poi sull'iPhone diciamo dei malware che in qualche modo andavano a compromettere la sicurezza di Telegram e di WhatsApp, cioè quindi sostanzialmente di sistemi di instant messaging. In qualche modo si voleva cercare di accedere ai contenuti delle chat, evidentemente di queste persone i cui cellulari erano affetti da questo da questo malware. Ancora negli articoli si indica sempre che l'operazione sì, diciamo, proviene dall'India, ma tendenzialmente si tende a riferire sempre tutto all'intelligence russa, che ormai sembra che spadroneggi, e quindi niente, ve la volevo dire anche questa notiziola perché era strettamente correlata a quell'altra, alla vicenda che vi ho raccontato precedentemente, degli sviluppi della vicenda Guccifer. Ora vi lascio un altro po' di musica e poi ancora qualche altra veloce notizia dal mondo dell'hacking, poi chiudiamo questa puntata e ci risentiamo magari lunedì prossimo. Thank you. La prossima notizia riguarda sempre i malware, ma questa volta non si parla di iPhone, non si parla di cellulari, questa volta si parla di una roba che ci tocca almeno a me un pochino più da vicino, ecco, perché sostanzialmente sono stati ritrovati dei malware, sì, dei programmi modificati per fare da malware, quindi fare cose losche sulla vostra macchina, nei repository di Arch Linux, che è una distribuzione appunto di Linux che io personalmente non utilizzo, però è un po' quella che nasce, diciamo, dall'approccio Gentoo alle cose, cioè ogni pacchetto viene ricompilato anziché installato già precompilato. Questo piace molto agli smanettoni, perché ogni pacchetto precompilato può essere quindi sfruttare al meglio le feature della macchina su cui gira. In realtà il problema sembra nato da un repo gestito direttamente dagli utenti, cioè l'Arch Linux User Repository, cioè non dal team di sviluppo di Arch, ma del software altro che viene mantenuto direttamente dagli utenti, che comunque fa parte, diciamo, dei repo standard delle distribuzioni Arch Linux, quindi fa parte di quel deposito di programmi a cui voi potete attingere. E questo report, diciamo, in questo repo c'erano anche alcuni programmi che erano ormai orfani, cioè nessuno li manteneva, e quindi c'è quest'utente di Arch Linux che si era accollato la gestione di AcroRead, che era un PDF Weaver sostanzialmente, cioè un oggetto per vedere i PDF. Il problema è che questo signore, che si fa chiamare Xactor, no, Xactor, esatto, cosa ha pensato bene di fare? Ha pensato di prendere questo programma, metterci dentro un malware e ributtarlo sul sistema, diciamo, sul repo. Quindi chi se lo fosse scaricato e compilato, o anche scaricato pacchettizzato, in realtà si è scaricato un malware. Questo malware raccoglie informazioni sulla macchina e l'invia come un documento su Pastebin, che è un sito che si utilizza per fare tipo un copia e incolla online. Non è niente, una specie di scheda degli appunti online che si usa spesso, però appunto nell'amo della comunicazione anonima su internet, per scambiare informazioni e renderle pubbliche, nel senso che ci si può accedere con Tor, fare copia e incolla e le cose vengono pubblicate. In questo caso, questo malware prendeva alcune informazioni sulla macchina, e questa cosa la metteva all'interno degli script che gestiscono la macchina, cioè utilizzava sostanzialmente una sorta di cron che ogni 360 secondi prendeva vabbè, un riferimento orario, una specie di della macchina, alcune informazioni sui pacchetti installati, il nome della macchina, un po' di informazioni sulla CPU, una serie di altre cose riferibili ai servizi che giravano su quella macchina, li buttava tutte su questo Pastebin. Ecco, questa roba è abbastanza brutta, diciamo, nel senso che è buono che l'Arch Linux ne sia accorta, è brutta che qualcuno abbia provato a farla. Negli anni passati si parlò anche riferibile ad altre distribuzioni, tipo ad esempio a Debian, c'era stato questo problema di maintainer loschi che, insomma, non. Oppure addirittura di server, diciamo, con i repo bucati, in cui veniva sostituito fisicamente il pacchetto. È una cosa, insomma, abbastanza brutta nella comunità Linux. Più che altro è una qualcosa che in qualche modo io sento più vicino come problematica rispetto alle mille problematiche di client di sistemi operativi Microsoft o vari per iPhone o Android, eccetera, cose che io personalmente non ho, e quindi tendenzialmente mi tange anche il giusto. Questa invece la sento come una cosa un poco più fastidiosa, però ecco, questo è ciò che è accaduto. Vi lascio un altro pochino di musichina e poi vi do l'ultima notiziola abbastanza tecnicosa, però penso interessante, se non altro per capire un po' in che mondo si muove il mondo dello sviluppo dei browser, visto che la maggior parte degli attacchi, molti ormai vengono dal web, quindi vi volevo raccontare un pochino di questa cosa che sta facendo Google, e poi vi saluto e fine. All'ultima notizia della giornata è una notizia boh, in parte tecnica, però se mi riesci a spiegarvela bene, magari è interessante da sapere come cosa. Sostanzialmente Google ha rilasciato una versione quella nuova del proprio browser di Chrome, quindi che ne so, tipo la 67 mi sembra, ha messo come default una caratteristica che prima era un optional, che è la site isolation, che significa che loro hanno cercato, oltre ad isolare, diciamo, con una sandbox ogni singolo processo del browser, quindi ogni singolo task che voi lanciate, hanno, diciamo, aggiunto anche questa site isolation, che dovrebbe servire a fare in modo che quegli attacchi che ne escono in continuazione, sono usciti ancora di recente, tipo Spectre, Meltdown o simili, o diciamo quelli che appartengono a questa famiglia, quindi cose che sono problemi del processore e del sistema operativo, quindi un livello a cui un software sopra, tipo ad esempio il browser che utilizzate, non ci può fare quasi nulla. Ecco, Chrome si è messo a aggeggiare un po' e ha detto: boh, io vorrei proprio isolare, a livello proprio di sito visitato, le risorse della macchina, in modo che non sia possibile sfruttare questo tipo di attacchi per tirare fuori delle informazioni dalla macchina o rendere la cosa veramente molto molto molto molto difficile. Questa roba era infatti consigliata diciamo da Chrome, da Google, come cosa opzionale per chi fosse allarmato dal proliferare appunto di questo tipo di vulnerabilità, quelle relative ai processori appunto, e ora è stata aggiunta di default. Quindi dal loro punto di vista è una notevole si tratta di un notevole incremento della sicurezza di questo oggetto, quantomeno rende piuttosto complicato l'utilizzo poi di questi attacchi. Pare che così come è realizzata sia anche una roba che dovrebbe rendere inutilizzabili quelli che vengono chiamati Universal Cross Site Scripting, che sono una particolare tipo di cross site scripting. Di questa cosa ne abbiamo già parlato in qualche puntata, magari vi metto dei riferimenti su blog per i più curiosi. Comunque è un attacco abbastanza diciamo vabbè, dipendente molto dall'applicazione che state dal sito che state visitando, ecco, se la cosa sia utilizzabile o meno. Visto che però questi qua, insomma, il signor Google dice: io non posso controllare tutti i siti, allora io tendo a darti un coso che, se anche queste robe ci sono, non sono sfruttabili. Spostano un pochino il problema più in là, dicendo: non possiamo, insomma, insegnare ai programmatori, a tutti, la programmazione sicura. Cerchiamo di fare uno strumento che però tenta di parare gli errori. E vedremo se questa cosa poi si traduce in una roba, diciamo, in qualcosa che impatta veramente, o come spesso cioè come volte accade, comunque il problema di molti attacchi informatici spesso non è appunto tanto la questione tecnica, ma è più una questione di, appunto di come le persone utilizzano le macchine e su quello ci può far poco, per fortuna anche, nel senso che non è, almeno io penso che sia veramente qualcosa che fa rabbrividire, pensare che, insomma, che si stia a rendere, cioè a trasformare la mia esperienza di utilizzo di un computer, che già spesso è triste, in qualcosa che mi trasforma in un essere paranoico che pensa continuamente di essere attaccato da tutti, o comunque non lo so, in qualche modo, diciamo, l'utilizzo del web come vettore d'attacco perenne, come sembra che stia diventando almeno in parte ad alcuni livelli, tipo appunto le sfide degli stati sull'internet, diciamo, rendono, secondo me, l'approccio cioè l'utilizzo della rete sempre meno interessante. Cioè, se mi devo fare 2000 paranoie ogni volta che apro internet, smetterò di aprirlo a una certa, perché non è troppo a fatica, cioè ho anche altre cose da fare nella vita. Per esempio, ascoltarci un po' di musichina, con la quale io vi saluto. È stata una puntata molto veloce, un po' spot, però vi siete comunque ascoltati negli intermezzi musicali un ottimo Charlie Parker. Ve ne lascio ancora un pochetto prima di finire la puntata di Coccoli al Silicio, e ci si risente poi la prossima settimana con un sacco di entusiasmanti nuove notiziole.